Gruppo Crudo 2007, capitati qui nell'era di Calì. Vive Cananda, è sempre viva. Tu non scordare mai che Jiva è Shiva. In quest'età del ferro sempre più lasciva. Erro come Cirro in calda sera estiva. Diapositiva della fine del mondo. Di quest'immonda sarabanda dove affondo. Ti contrabbando propaganda, ti raccomando. Un'analisi profonda della merda che di certo ti circonda. E circa la reazione non v'è dubbio debba essere feconda. Non mi ingabbio, non insabbio. Sappi che qualsiasi cosa faccia, faccio al meglio. Karma yoga per il Kali Yuga, non c'è fuga, follia che si propaga, ti infetta come piaga, la volontà si piega nell'era della decadenza, di conseguenza si impone un'espansione di coscienza, la ricerca della trascendenza nell'azione stessa, è qui che cesso d'essere tessera e sarò tutto il mosaico, armonico in questo buco nero storico. Siamo capitati qui, nell'età del ferro, nell'era di Kali. Accettarsi ma elevarsi, esigersi impeccabili. L'era di Kali ci rende deboli, labili. Guerra, terra, ferro e fuoco più di Sodoma e Gomorra. Niente oro, incenso, mirra, alla sbarra, tutto scorra. Ed ognuno si scrolli la propria zavorra. Canti il proprio mantra, osservi il proprio yantra. Shakta Tantra. Tempo dell'azione, per l'unione mistica col cosmo. Sono il karma yogi, versi nuovi, rime a chiasmo. Simile a un orgasmo, un organismo che si fonde con l'insieme del reale. Unità fondamentale, olismo ininterrotto. Identificazione del frammento con il tutto. Accettare il proprio karma, aderire al proprio dharma. Questa nuova arma trasforma la mia orma. Nessun dorma, non c'è tempo. Nessuno vince all'alba e tantomeno monta sull'Olimpo. Siamo capitati qui, nell'età del ferro, nell'era di Kali. Accettarsi ma elevarsi, esigersi impeccabili. L'era di Kali ci rende deboli, labili. Siamo capitati qui, nell'età del ferro, nell'era di Kali. Accettarsi ma elevarsi, esigersi impeccabili. L'era di Kali ci rende deboli, labili. Prigionieri sventurati, angeli caduti partoriti nell'era di Kali, ma non è tutto qui. Karma yoga, nuova droga per la gente, rivoluzione, stato della mente. Siamo capitati qui, nell'età del ferro, nell'era di Kali. Accettarsi ma elevarsi, esigersi impeccabili, l'era di Kali ci rende deboli, labili. Siamo capitati qui, nell'età del ferro, nell'era di Kali. Accettarsi ma elevarsi, esigersi impeccabili, l'era di Kali ci rende deboli, labili.